Italia in controluce. 13.34, buongiorno da Alessio Maurizio, gentili ascoltatori, l'appuntamento di Radio 24 con le piccole e grandi storie della cronaca per raccontare l'Italia in controluce. Sono di nuovo ore di fibrillazione intorno al gruppo Fiat. Ieri l'amministratore delegato Marchionne è intervenuto per stoppare la serie di ipotesi che circolavano sulla stampa a proposito del piano strategico in preparazione al Lingotto. Nulla è ancora deciso, ha detto Marchionne, dopo che alcuni giornali parlavano di tagli per 5.000 persone. Noi vogliamo tornare a Pomigliano d'Arco, dove proprio in queste ore si discute del futuro dello stabilimento Fiat, ma anche dell'indotto. Paolo Picone. Sono i cori, gli slogan dei lavoratori di Fiat Auto e delle altre aziende del settore automobilistico in Campania, in particolare del comprensorio di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, in una delle decine di manifestazioni di protesta degli ultimi mesi. Da 2 anni si contano infatti sulle dita di una mano i giorni di lavoro nello stabilimento campano di Fiat e qui la parola d'ordine ormai è cassa integrazione, e così sarà ancora per almeno altri 6-7 mesi. Nel frattempo decine e decine di piccole aziende dell'indotto di secondo livello non hanno retto alle mancate commesse da parte di Fiat ed hanno dovuto chiudere i battenti. La conseguenza è che dei 15.000 addetti al solo indotto del settore auto in Campania, almeno il 60% non solo si è visto licenziare dalla sera alla mattina, ma non ha neanche potuto usufruire degli ammortizzatori sociali. Per migliaia di tute blu, molti lavoratori anche in nero, la cassa integrazione è rimasta solo un sogno. Per loro la situazione si è fatta drammatica. Sono stato licenziato il 31 dicembre, come vede l'unica cosa che mi posso permettere oggigiorno, i miei figli sono andati da mia suocera perché è una casa molto fredda. Niente, che sto in attesa che mi chiamano a lavorare, che so devo andare a lavorare fuori, però non fargli pesare questa situazione anche a loro. E soprattutto anche a mia moglie. Io penso che una soluzione deve trovare o il governo o qualcuno che ti prenda la responsabilità. Giovanni Sgambati, leader regionale della Wilm Campania, traccia un bilancio di ciò che è accaduto finora. Il dato più drammatico che abbiamo è sicuramente i lavoratori che non siamo stati in grado di tutelare, perché anche i provvedimenti di sostegno al reddito sono arrivati tardivi. Noi immaginiamo che diverse migliaia di lavoratori ormai sono fuori dal processo produttivo. Da sottolineare che tra 6-7 mesi, quando il sito produttivo di Pomigliano d'Arco dovrà riprendere appieno la produzione con la nuova missione della Panda, l'azienda torinese, oltre a una serie di questioni interne, dovrà anche preoccuparsi di ricostruire in questa regione un indotto che è quasi del tutto scomparso. Sgambati ne è fermamente convinto. Ma sicuramente quello dell'indotto e delle realtà di secondo livello è una delle realtà più drammatiche da un punto sociale che abbiamo assistito in questo ultimo biennio di crisi dell'auto. Però evidentemente a partire da fine 2010 questo dramma rischia di essere anche un'opportunità. Se queste figure di imprenditori valutano di reinvestire in questo settore, soprattutto con la nuova Panda, si può creare una grande opportunità, perché è vero che Fiat dovrà riqualificare lo stabilimento, ma dovrà anche riqualificarsi la manodopera e gli stabilimenti che producono forniture per Fiat sulla Panda. Io penso che questo sarà lo snodo importante per garantire sia il lavoro qualitativo dentro Pomigliano, ma fare anche un balzo in avanti da un punto di vista qualitativo e competitivo dell'indotto di Pomigliano. E proprio pochi giorni fa, anche su molti lavoratori che finora avevano ricevuto la cassa integrazione, si è abbattuta una vera e propria mannaia. Infatti, l'emendamento approvato con accordo bipartisan dalla Commissione Lavoro della Camera sull'allungamento del periodo di cassa è stato bocciato dalla Ragioneria Generale dello Stato e dal Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi per mancanza, pare, della copertura finanziaria. Italia in controluce. E ora un anniversario. Genova, 30 anni fa, fase finale degli anni di piombo, un blitz dei carabinieri in un covo delle Brigate Rosse, 4 morti, un momento scioccante per la città, uno dei più drammatici degli anni di piombo. Ce lo ricorda Andrea Ferro attraverso le parole di un testimone diretto, il colonnello, l'ufficiale dei carabinieri Michele Riccio, che guidò quel blitz. La notte tra il 27 e il 28 marzo 1980, a Genova la primavera non è ancora iniziata. Il freddo punge una città rannicchiata sotto le coperte, intimorita ed ingrigita dalla cappa di piombo che da anni la avvolge. Anni spietati, morti, feriti, rapiti, sotto il segno di una stella a cinque punte che qui si è manifestata sin dalle penombre della notte della Repubblica. Via Fracchia è una strada stretta dal tracciato schizofrenico, come quasi tutte quelle che a Genova si snodano tra i quartieri dove il cemento ha mangiato tutto. Ma quella notte di 30 anni fa quella via non è deserta. Un esercito di uomini sparsi in borghese la cintura, la stringe, sono fantasmi invisibili, perché in Via Fracca c'è un covo delle Brigate Rosse. I carabinieri l'hanno saputo da Patrizio Peci, che da settimane è un torrente in piena, dal quale tracimano luoghi, circostanze, nomi. Alla guida di quel gruppo di militari c'è Michele Riccio, è un capitano del nucleo speciale antiterrorismo del generale Dalla Chiesa. Mi ricordo che facemmo un'analisi minuziosa di tutti i palazzi che potevano avere caratteristiche che potevano, diciamo, assomigliare o perlomeno portarci a individuare il covo. Mi ricordo che mi rivolsi anche al parroco di Oregina, ci fece parlare con alcune signore, con alcune anziane signore che erano un po' i suoi occhi sul territorio, i suoi occhi e le sue orecchie. I carabinieri individuano l'alloggio e la proprietaria. È una giovane insegnante incensurata, si chiama Anna Maria Ludman. Non sanno altro, non sanno soprattutto quanti possono essere gli occupanti del covo. L'osservazione avviene a distanza, ogni elemento è vivisezionato. Ci accorgemmo che nonostante avesse un consumo di energia elettrica, di acqua basso, un'analisi accurata in quei giorni della roba che stendevano ci fecero comprendere che invece molto probabilmente all'interno della casa la ragazza non era sola. Accertato che il covo è lì, al 12 di Via Fracchia interno 1, bisogna entrarci. Si valuta se farlo di giorno o di notte. Il generale Dalla Chiesa ordina di accorciare i tempi perché l'irruzione deve avvenire simultaneamente ad altri blitz che a Torino sono pronti a scattare. Noi volevamo portare avanti un'attività di osservazione e pedinamento per ampliare la rete, diciamo, sul territorio, la rete brigadista, individuare come si faceva sempre, partendo da un punto individuato certo come può essere un brigadista e da lui, seguendo lui, risalire all'intera o possibilmente a più obiettivi. Invece, giustamente, il timore da parte del generale di perdere freschezza la bontà delle attività investigative che avevano svolto su a Torino, disse bisogna intervenire in maniera contemporanea, come loro dovevano intervenire nella zona di Torino anche le prime ore dell'alba, perché molti brigadisti abitavano nella periferia piemontese e al mattino poi raggiungevano l'attività di lavoro che iniziava di solito alle 7, alle 8, a seconda dei turni delle fabbriche, per cui disse l'orario è quello delle 4. E l'ora X scatta, i carabinieri entrano nel condominio. Arrivammo davanti all'ingresso, notai subito le tre serrature sulla porta, bussai, sentì la voce di una ragazza alla porta e disse, mi qualificai. Carabinieri, perché alle 4 del mattino non c'era altra cosa da dire se non carabinieri, non potevamo dire lattaio, postino. E questa disse un attimo che apro, invece di aprire sentì che cominciò a chiudere. A quel punto i carabinieri del capitano Riccio sfondano la porta del covo a calci. Mi trovai improvvisamente una tenda davanti all'ingresso, una tenda tipo cinema, no? Quelle pesanti, di quelle di velluto. Scostai la tenda e ripetendo, guardate, siamo carabinieri, siete circondati, arrendetevi, entrammo dentro. Entrai io e questi due sottufficiali, mentre gli altri rimasero all'esterno perché, diciamo, lo spazio era stretto per poter entrare in sei. I carabinieri sono armati di fucile a pompa, hanno i caschi antiproiettile e i giubbotti. Dall'appartamento al piano terra di Via Fracchia non ci sono vie di fuga. Io pensai, si arrenderanno, perché col giubbotto non è che siamo venuti così in maniera sprovveduta o una normale perquisizione. E rimasi quasi incredulo nel vedere e sentire il botto e la fiammata del colpo d'arma da fuoco. Un tutt'uno vedere Benà cadere all'indietro. Lo vide cadere piano piano all'indietro e guardai Benà, e mentre gli altri due al mio fianco iniziarono a sparare, io mi preoccupai subito di vedere come stava, cioè il mio maresciallo. Perdeva sangue da un occhio, perché con la mano cercava così nervosamente il suo mito aperto e dice: non dite nulla, mio moglie, non mi sono fatto nulla. A quel punto nell'appartamento un inferno di fuoco. Sparammo tutti i colpi che avevamo nel caricatore e poi, terminato, diciamo, le munizioni, ci accostammo ai muri, perché poi sparammo in direzione dello sparo che ci aveva attinto. E dissi: guardate, rendetevi, venite avanti. E invece uno di quei sottufficiali che erano alle nostre spalle illuminò il faro e disse: guardate, sono armati. Sentì gridare una bomba, e iniziamo a sparare. Abbiamo sparato fin quando, diciamo, abbiamo terminato i colpi. Nel corridoio si allungano le sagome di quattro corpi senza vita. Si sa solo un nome, quello appunto di Anna Maria Ludman, la proprietaria dell'appartamento. Gli altri saranno rivelati dalle stesse BR. Si chiamavano Riccardo Dura, il capo colonna, Lorenzo Betassa e Piero Panciarelli, due operai torinesi. Nel covo, un attimo dopo, il telefono squilla. Squilla il telefono, era il generale Chiesi, mi disse, signor generale, mi disse, so tutto, non ti preoccupare, sto arrivando, dimmi cosa c'è. È tutto per questa edizione, vi ricordo i nostri indirizzi a cui potete scriverci: controluce@radio24.it oppure su Facebook Radio 24 Italia. In Controluce vi lasciamo ad America 24, buona giornata.